Letture di Radio 24. Da qualche giorno è diventato obbligatorio per tutte le categorie professionali far pagare con il bancomat quando la spesa supera i 30 euro. Ma per commercianti e artigiani che decidessero di non dotarsi di un POS non è prevista alcuna sanzione, commenta Massimo Gramellini sulla Stampa. Nei paesi meno intelligenti, il POS, acronimo di Point of Sale, punto di vendita, è un banale sistema che consente ai clienti di pagare ovunque con bancomat e carta di credito, senza estrarre banconote unte, stropicciate e facilmente nascondibili all'occhio indagatore del fisco. Invece, in un paese intelligentissimo, di cui tacerò per omertà il nome, il POS, acronimo di Pagare Onestamente Stanca, è un astuto sistema studiato dal dottor Azzecca Garbugli in persona, con l'assistenza del gatto e la volpe e la supervisione del Gattopardo. Consiste nell'obbligare commercianti e artigiani a munirsi della macchinetta che legge le carte di credito, ma senza prevedere, qui sta la genialità, alcuna sanzione per chi si rivela allergico all'idea di dotarsene. Esempio: arriva a casa vostra un idraulico. Aggiusta il rubinetto e in un afflato di bontà vi chiede soltanto 120 euro. Voi estraete la carta, immaginando che lui farà lo stesso col POS. Ma l'idraulico è un brave art della contabilità e rivendica fieramente la libertà di non possederlo. Allora voi, immaginando di avere la legge dalla vostra, rifiutate di scucire i contanti. L'idraulico andrà a denunciarvi per non averlo pagato, mentre voi non potrete fargli nulla, perché chi è senza POS non è sanzionabile. Come mai? Per non irritare artigiani e commercianti, prima di imporre una multa, il governo ha deciso di aspettare che le banche abbassino il costo delle commissioni. Aspetta e spera, anzi, dispera. E intanto col vostro idraulico come la mettete? All'italiana, ovviamente. Ricorrendo al classico PSIN, pagamento scontato in nero. Avete ascoltato la lettura del Buongiorno di Massimo Gramellini, Non ne pos più, dalla Stampa dell'1 luglio. Letture di Radio 24. Partendo da due capisaldi del messaggio evangelico, Papa Francesco lancia la sua risposta al marxismo e rivendica la bandiera dei poveri. È certo una riaffermazione del cuore del Vangelo dire, come ha fatto Francesco intervistato da Il Messaggero, che la bandiera dei poveri è cristiana. Ma secondo lo stile cui ci ha abituato il Papa, più che sottolineare un asettico argomento di tipo dottrinario, ha fatto irruzione nella vita, nel sentire della gente, nei problemi che inquietano le notti e i giorni degli uomini e delle donne di oggi. Ha posto al centro della sua riflessione il senso da dare a quell'essere poveri che affligge milioni e milioni di persone e che potrebbe portare alla disperazione e alla rivolta, se a tale condizione di miseria, materiale e morale, non avesse cercato di porre riscatto e dare speranza 2000 anni fa l'annuncio evangelico, cioè l'esperienza della passione, morte e resurrezione di Gesù in nome proprio dei poveri. Perché non sussistessero dubbi, Francesco ha fatto riferimento a due capisaldi cui deve attenersi chi vuole essere coerente con il Vangelo, testimoniandolo nelle scelte piccole e grandi di ogni giorno, non solo proclamandolo a parole. Il primo è costituito dalle beatitudini, poveri, miti, afflitti, quelli che hanno fame e sete di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per causa della giustizia. Di essi è il regno dei cieli, recita Matteo. Il secondo, sempre in Matteo, è rappresentato dal capitolo 25, a proposito del giudizio finale, che il Papa chiama il protocollo sul quale saremo giudicati. Ho avuto fame, ho avuto sete, sono stato in carcere, ero malato, ignudo. In nome di queste due bandiere, il termine è di Francesco, il cristianesimo e la Chiesa sono riusciti a sopravvivere sino ad oggi. Nonostante le infedeltà e le negazioni pratiche del sacrificio di Cristo, gli scandali interni, i compromessi con il potere politico ed economico, la corruzione. Materiale scottante e attualissimo, visto che ancora ieri, consacrando nuovi vescovi, il Papa ha messo in guardia i pastori. Di essi solo qualche mese fa aveva detto che devono avere l'odore delle loro pecore, per ribadire la doverosa vicinanza del vescovo al quotidiano patire dei fedeli, dal cercare le insicurezze nelle cariche e nei privilegi, dal garantirsi l'appoggio di quelli che hanno potere in questo mondo. Affermando che la povertà è al centro del Vangelo, con l'intervista Francesco ha assestato un paio di colpi sul piano culturale e politico. Ha risposto ad almeno un secolo di accuse provenienti da parte di liberali e marxisti, ai primi dicendo che la scelta di campo della Chiesa è in linea con il Vangelo e quindi la smettano di accusarla di pauperismo e non cerchino di strumentalizzarla come fattore d'ordine. Quanto ai secondi, propensi a rimproverare le arretratezze della Chiesa, ha ribaltato le argomentazioni, affermando «i comunisti ci hanno rubato la bandiera». Ma il Papa ha fatto anche giustizia di tante polemiche che hanno avvelenato la vita a preti, vescovi, esponenti della cultura e semplici cristiani all'interno del mondo cattolico e della Chiesa, bollati come comunisti o, con un neologismo tutto italiano, chiamati con spregio addirittura cattocomunisti. La storia nostrana sotto il fascismo e nel dopoguerra può essere letta anche attraverso le persecuzioni e le emarginazioni di figure che hanno preparato il Concilio, lo hanno vissuto e hanno poi cercato la sua attuazione. Francesco oggi patisce in parte certe accuse, in particolare da ambienti nordamericani, e nell'intervista Franca Giansoldati gliele riferisce. Essere cioè, secondo alcuni critici, comunista, pauperista, populista. Il Papa ha riso dell'essere paragonato a Lenin e in tale espressione liberatoria in qualche modo ha riscattato le tante emarginazioni inflitte da noi ai Mazzolari, ai Dossetti, ai Turoldo, ai Lazzati, ai Montini della prima ora, ai Lapira, ai Don Zeno Saltini, ai Martini, ai militanti dell'Azione Cattolica, sostenitori della scelta religiosa, ai sindacalisti, agli esponenti delle ACLI, ai semplici fedeli che pensavano ai poveri e a un Vangelo da vivere, per assicurare giustizia sociale, democrazia e convivenza al Paese, prima ancora che un'opinione pubblica matura e adulta nella Chiesa. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Marco Garzonio, Il Papa rivendica la bandiera dei poveri, dal Corriere della Sera del 30 giugno. E se il tempo non esistesse affatto? E se tutto accadesse simultaneamente? In un articolo pubblicato sul sito Waking Times, Brandon West analizza il concetto di tempo partendo da una diversa prospettiva del concetto di movimento. Ogni giorno vediamo il cambiamento e possiamo misurare il tempo, quindi deve essere vero. E se potessimo cambiare la nostra percezione dell'universo e risolvere questo conflitto? E se il tempo non ci fosse proprio nell'universo? Ed esso sia solo il risultato di un cambio di prospettiva all'interno di un universo statico, che in qualche modo non mostra un moto né un universo in cambiamento. Per indagare meglio questa idea, dobbiamo scoprire cosa sia veramente il moto. Nassim Haramein ha detto che ciò che percepiamo come moto è in realtà dovuto al fatto che la realtà, a livello quantico, lampeggia ad alta frequenza dentro e fuori l'esistenza, e che la creazione, in effetti, appare e scompare oscillando tra la forma e la sua assenza, e questo innumerevoli volte ogni secondo, dando così la sembianza del moto. Quindi, tecnicamente, le cose non si muovono affatto in questo universo, ma appaiono e scompaiono in schemi leggermente diversi, che fanno apparire tutto ciò come moto. Non è il campo unificato a lampeggiare, ma solo quella che noi percepiamo come materia solida, ovvero le particelle, i nuclei, le particelle subatomiche e il mondo materiale. In un certo modo potrebbe essere tecnicamente più accurato chiamare ciò che facciamo ogni giorno microteletrasporto. Quando entriamo in un negozio e guidiamo la macchina, in realtà stiamo teleportando in minime quantità, assurdamente piccole, ma ad una frequenza estremamente alta, per dare la sembianza del moto. Tuttavia, questo moto accade solo percettivamente sui livelli energetici più bassi della creazione, ovvero il mondo materiale e il mondo classico in cui esistiamo per la maggioranza del tempo, e potenzialmente il livello atomico molecolare della realtà. Quindi, a livello teorico e quantico della realtà, non c'è moto, ma un lampeggio dentro e fuori dall'esistenza di creazione. Dal punto di vista del nostro livello, ciò appare come un moto fluido, proprio come le persone nel video della TV che stanno effettivamente muovendosi, ma sono i piccoli pixel che lampeggiano in reciproco coordinamento, e la cosa fa sembrare che ci sia del moto. Immaginate che tutto esista simultaneamente. Immaginate che tutte le versioni dell'albero lì fuori dalla finestra, in questo momento presente, dal momento della sua nascita a quello del suo apparente futuro, fino alla morte dell'albero stesso, siano codificate nello spazio e tempo olograficamente presenti nel campo unificato. Quindi nulla in realtà mai appare e scompare. Si muove o persino cambia. È solo la nostra percezione della realtà, a questo livello, che dà la sembianza del cambiamento. In altre parole, tutta la realtà, tutto il tempo, tutto il moto, sono un semplice risultato della coscienza in movimento. Se le dinamiche del fluido della teoria di Nassim sono corrette e se tali dinamiche sono in effetti l'origine della coscienza, allora questo è il fondamento della creazione. E quindi scopriamo che il fondamento della creazione è un collasso senza forma in se stessa e una corrispettiva creazione. Di fatto non c'è moto nel mondo fisico. La fisica quantistica ce lo ha dimostrato quando ha scoperto che la realtà è un lampeggiare fuori e dentro l'esistenza. Ci sono solo immagini olografiche che cambiano quando la coscienza si espande e si contrae in se stessa. E se il flusso del campo unificato all'interno dell'universo fosse esso stesso il meccanismo che fa sì che la realtà lampeggi dentro e fuori l'esistenza e che determini altresì il flusso del tempo? Tutta la creazione e tutta l'attività della creazione sono il risultato della coscienza che interagisce al suo interno con se stessa, creando coscienza. Ed è solo perché noi tutti condividiamo un comune consenso della realtà, nella maggior parte dei casi, che sorge il tempo sul pianeta. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Brandon West «E se il tempo non esistesse affatto?», pubblicato sul sito wakingtimes.com, traduzione italiana dal sito Nexus Edizioni. Grazie ad una recente sentenza della Corte Europea, adesso è possibile chiedere a Google di eliminare i dati personali dal motore di ricerca, quando si ritiene che le informazioni possano essere irrilevanti, obsolete o inappropriate. Basta compilare un apposito modulo che si trova in rete. Larry Page, fondatore e amministratore delegato di Google, ha istituito una commissione per valutare quali richieste possano essere accolte. È delicato, difficile. Ma è del tutto inverosimile che le richieste possano essere valutate caso per caso. E soprattutto è praticamente impossibile avere una coerenza e una trasparenza assoluta nelle decisioni. In questo mondo di informazioni dilaganti e incontrollate, l'oblio non fa paura. Anzi, viene letto come un punto di arrivo, un sollievo dalla ridondanza. Ma nessuno ricorda le parole di Kundera, che ha passato una vita a raccontare la memoria, la storia, il ricordo, ad attraversare il tempo nei suoi romanzi, dandoci un'idea precisa di cosa possa significare cancellare informazioni attraverso i link. Ci sono casi per cui il diritto all'oblio è sacrosanto. Quando restano informazioni personali che non hanno più motivo di essere. Per esempio, chi ha scontato una pena ed è riabilitato non ha piacere che rimanga sul web il suo passato. Ma il resto è un braccio di ferro con il potere. Il potere di togliere, il potere di trasformare la storia, quello che è stato, in un oblio che non è silenzio e benessere, ma è la fine dell'identità. Kundera dice: «L'io è la somma di ciò che abbiamo nella nostra memoria. Dimenticare è una sventura. Migliaia di persone che chiedono di togliere e cancellare fanno paura, anche quando possono esserci delle buone ragioni. Il modulo di Google, in linguaggio burocratico, dice: durante l'implementazione di questa decisione, valuteremo ogni singola richiesta e cercheremo di bilanciare i diritti sulla privacy della persona con il diritto di tutti di conoscere e distribuire le informazioni. Durante la valutazione della richiesta, stabiliremo se i risultati includono informazioni obsolete sull'utente e se le informazioni sono di interesse pubblico, per esempio se riguardano frodi finanziarie, negligenza professionale, condanne penali o la condotta pubblica di funzionari statali. Benché vada, sarà un lavoro gigantesco, e quel tentativo di bilanciare non tiene conto che la memoria, e questo lo sanno bene gli scrittori, è una continua alterazione degli equilibri, un ingrandire dettagli, un modo di vedere il mondo da punti di vista eccentrici e talvolta paradossali. Il diritto all'oblio può sembrare una via di uscita per ritrovare una privacy sempre più minacciata. Ma non bisogna dimenticare che trattenere il ricordo è premessa indispensabile di verità, identità e storia. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Roberto Cotroneo, Il diritto all'oblio è sacrosanto, ma fa paura, dal Magazine 7 del 4 luglio.